l'unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere la partita contro il Borussia. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Questo discorso, che ripeto, che lui conosce ed è un po' nella sua indole fare un po' la vittima, lo ha fatto probabilmente con l'intenzione di ottenere una reazione ulteriore da parte del gruppo, però non ho visto onestamente in questi primi due mesi, la Juve è stata molto più martellata dell'Inter. Invece io sto con Conte perché ho vissuto l'ambiente e so cosa vivono all'interno, e se me lo dice Conte, che è stato in altre squadre, avverte proprio che all'Inter è diverso. Perché succeda non lo so. Negli anni 2010 o gli anni prima l'Inter era abituata a vedere trofei alzati ed altro, ma ora sono passati anche 10 anni di non vittorie. Adesso attaccate a Chimi, di qua, Chimi di là. È un ragazzo che ha qualità e ogni giorno il caso a Chimi. Spero che succeda che anche la parte di media, la parte vostra sia un pochino più razionale in quello che uno dice, che uno scrive, che uno pensa. Quello che ho vissuto in tanti anni di Inter è che comunque l'Inter, quando le cose vanno bene, si cerca sempre di buttarla giù in un modo o nell'altro, e quando le cose vanno male sembra quasi sempre tutto da buttare, invece non è così. Siamo a inizio anno e siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi. Insomma, Houston, abbiamo un problema di comunicazione, ne parleremo oggi con voi, ovviamente. 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666, li voglio. Vuoi WhatsApp vocale e te lo mando, ma che te devo dire? Se non c'è niente da dire, non te lo mando, perché i nostri WhatsAppisti sono geniali. Ciao Pierluigi. C'è sempre qualcosa da dire, sempre. Okay. Sono meravigliosi. A proposito di comunicazione, che è il tema, la parola chiave di oggi, partiamo dalla comunicazione via Radio Tweet. Allora, la faccio, sento il mio ego, che insomma non è, c'è una brutta voce di no, scherzo, non buttiamo così, una cosa bella c'ho la voce. Vabbè, allora, è al femminile, perché oggi è una giornata storica, perché la Frappard dirigerà Juve di Dinamo Kiev, perché Saragama, lo sappiamo, è la vice dell'AIC. Dei giorni scorsi si è giustamente, non bisogna mai, non dobbiamo mai stancare di farlo, sensibilizzato l'opinione pubblica su cose terribili come il femminicidio, la violenza domestica, eccetera. Questo è un piano fondamentale nei rapporti uomo-donna. E poi c'è un piano, secondo me, che riguarda la parità reale, la parità salariale, la parità di rappresentanza nei luoghi apicali delle grandi aziende, delle istituzioni, e anche nel mondo del calcio, che tradizionalmente ovviamente nasce come un mondo maschile. Quindi questa è una bellissima notizia, secondo me, che ha un valore ovviamente sostanziale e anche simbolico, tutti e due, ed è una continua sfida verso la civiltà, verso una parità reale di salari, di diritti, di considerazione, di comportamenti. E quindi insomma un applauso a questa cosa. Io ci aggiungerei anche una ragazzina, Matilde Villa, che ha 15 anni, ha segnato 36 punti in Serie A, e stiamo parlando di basket. Dicevo, Houston, abbiamo un problema di comunicazione. Per me Houston è Michele Dalai, uno dei più brillanti e geniali comunicatori che conosco. Ciao Michele. Adesso calma. Sarebbe intervenuto dall'altra parte. Dico calma, come uno dei più brillanti, il più brillante. Ma chi scherza? Adesso fammi un altro nome, dai. No, non mi viene. Non c'è. No, anche perché, Pier, ti dico una cosa, magari la sai già, sono particolarmente felice perché tutta questa brillantezza la porterà in dote allo sport che più amiamo, e cioè alla Lega Basket, Michele. Esatto. In quale ruolo? Dimmi in italiano. In un ruolo che non c'è, nel senso che è molto divertente, perché è quello di una sorta di direzione creativa. In italiano vuol dire quello, vuol dire cercare delle idee in un momento che per il basket, come per gli altri sport non italiani, per gli altri sport è abbastanza drammatico, abbastanza perché sfumiamo sempre questa cosa rispetto al dramma che poi si vive anche fuori dallo sport, però è un momento drammatico che è quello dello sport privato del suo motore, che è il pubblico, privato del calore delle persone. Bisogna provare a inventarsi qualcosa di nuovo. Umberto Gandini, che è una persona che conosco, che è presidente di Lega Basket ed è uno che ha delle idee, mi ha chiesto di provare ad averne qualcuna con lui, ed è una bellissima sfida, perché poi al di là poi degli scherzi sulla comunicazione, in realtà credo che in questo momento siano proprio tutti quelli come noi che dalla radio, dalla televisione, dai social media riescono a raccontare o a tenere vivo un po' l'idea di uno sport possibile in questo lungo tragitto nel buio, e di quello che poi sarà subito dopo. Abbiamo un lavoro, ecco, e se prima facevamo fatica a spiegare ad altri adulti qual è il nostro lavoro, cioè parlare di sport, a volte adesso diventa un po' più semplice, diventa anche una buona motivazione. Quindi la Lega Basket parte da una lunga stagnazione, da tanti anni di difficoltà diverse, e adesso ha bisogno di crescere significa fare dei numeri, e per fare i numeri devi farti conoscere, devi riuscire a parlare, quindi comunicare diventa fondamentale. Vedi perché Pardo aveva ragione. No, sono d'accordo e sono gasatissimo, sono felice ovviamente del professor Dalai. Qualche giorno fa lo Yulm, parlando con i ragazzi, si sottolineava questa cosa che secondo me però è interessante per tutti, no? Nel senso che mentre il calcio professionistico, al quale io voglio un mondo di bene, ha comunque come forma principale di sostentamento quella dei diritti televisivi, e sui diritti televisivi, al netto di un po' di discussioni, la rata prima, la rata dopo, lo scontro, lo sconticino, la prossima asta che non si pronuncia facile, però comunque quel grusso lì rimane. Quello che è invece il mercato degli altri sport è un mercato completamente diverso, perché è un mercato condizionato pesantemente dal botteghino. Il botteghino è importante, è pesante, quindi nel momento nel quale tu non hai più la possibilità, per ovvi motivi, che non è che mi metto a discutere, per carità, abbiamo 600 morti al giorno, ci mancherebbe altro che si riempissimo stadi e palazzetti, però il problema è molto più grosso, è molto più oggettivo, certo. Perché quella parte lì che viene a mancare pesa non per il 15%, il 12% come nel mondo del calcio, ma pesa per un 50, 60, 70%. Quindi la crisi potenziale di questi sport importanti, che non voglio chiamare minori perché non lo sono, ma che non hanno quei diritti televisivi che ha invece la Serie A o la Champions League di calcio maschile, anche qui questo va detto, va riconosciuto, beh, insomma, questa roba qui necessita, mai come in un momento come questo, di veramente di qualche idea geniale. Fa la differenza tra sopravvivere oppure no. Esatto. Per quanto riguarda invece il problema di comunicazione, cui abbiamo accennato con la copertina a proposito, grazie Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattone. Allora, Michele, io sinceramente abbiamo sentito Conte, abbiamo sentito Bergomi, Piccinini, anche Ranocchia, che mi sembra di sopra di ogni sospetto, però io tutto questo accerchiamento sull'Inter, cui tu vuoi molto bene, non lo vedo. Se perdi due volte con il peggior Real che esiste e rischi stasera di finire fuori dalla Champions, non vedo tutto questo accanimento. Ma allora, intanto credo che nel calcio ci siano dei ruoli, sono dei ruoli codificati, li si può interpretare con grande intelligenza o meno. Il ruolo della stampa sportiva, quella proprio solo sportiva, il ruolo dei tifosi, che hanno una parte in commedia, è quello di essere soddisfatti o insoddisfatti, di contestare, criticare, in buona e in mala fede, perché poi è parte anche dello spettacolo, ahimè o per fortuna. È un po' sospetto il fatto che dopo una sconfitta abbastanza umiliante, come quella con un Real più che dimidiato e dimezzato, il problema fosse l'arbitro, e dopo una vittoria in ottimo contropiede, con grande garra e tenacia, ma in contropiede con il Sassuolo, il merito della squadra, i cattivi sono tutti gli altri che pressano e fanno casino intorno. Questo è un modo di comunicare, secondo me, molto tipico. In alcuni casi lo vedevo come la costruzione del rumore dei nemici. In questo caso è sempre un po' polarizzata, no? La storia dell'Inter di quest'ultimo anno e mezzo. Mm. È sempre un po' legata a una persona, quindi faccio fatica a interpretarla come l'Inter penalizzata, l'Inter maltrattata, l'Inter. Io credo poco a queste cose, poi lo so che con Pier ne abbiamo parlato tante volte, credo che l'Inter poi si faccia spesso del male da sola, e quindi non mi piace molto questa modalità, soprattutto perché poi in questo momento, non che uno non possa lagnarsi più di tanto, però in questo momento secondo me si possono provare anche a dare degli altri messaggi, anche nell'esercizio della propria professione, che è quella di essere anche un uomo di comunicazione, un uomo pubblico. Conte lo è, qui fa una cosa che io non approvo molto, ecco, sono più della tua idea che l'Inter non stia subendo nessun tipo di assedio. No, però è curioso notare come il gioco magari con Mourinho funzionava, il rumore dei nemici, delle manette, tutto quello che vuoi tu, no, Pierluigi, ce lo ricordiamo perfettamente. Un giorno Andrea Zorzi mi spiegava a questi microfoni, oltre a mille altre cose, il fatto che Velasco fosse uno che amava creare una setta, non fosse un settario. Fai la setta, stai dentro la setta, noi contro il mondo contro di noi, dura 2 anni, poi scopriamo tutti, però va bene così. Non sta succedendo tutto questo, mi pare. Alla fine contano i risultati, cioè conta il funzionamento della strategia. Con Mourinho ha funzionato, io l'ho raccontato tante volte, ho avuto il privilegio di scrivere l'autobiografia di quel grande calciatore, grande uomo che è Samuel Eto'o, e l'ho fatta nell'anno del triplete, quindi lo incontravo nell'anno del triplete e lui mi raccontava ed era, in certi momenti sembrava, non voglio dire una parola grossa, ma lo dico in senso positivo, era quasi plagiato da Mourinho, o perlomeno se recitava benissimo. Io non credo ci fosse quell'anno lì chissà quale persecuzione nei confronti dell'Inter da parte di nessuno. Era Mourinho che era bravissimo a costruire quel tipo di sentimento all'interno del gruppo squadra, all'interno della tifoseria, che ha funzionato. E quindi chapeau. Però voglio dirti, anche Eto'o, che era uno che aveva vissuto nella sua vita finale di Champions League, ha vinto le coppe, aveva fatto di tutto, aveva giocato in squadre importantissime, era sensibile a quel tipo di fascino. Mm-hmm. Quindi io non credo ci fosse il rumore dei nemici quell'anno, perlomeno non più di quello che c'è alla Juve, al Milan, nelle grandi squadre, quando le cose vanno bene o quando vanno male. Chiaro. Non è che Pirlo, in questo devo sentire quel frammento di Piccinini, io sono d'accordo, non è che Pirlo in questo momento non sia sotto processo, poi che abbia goduto delle prime settimane sicuramente di un po' di articoli di giornale, un po' di fascinazione, perché è Pirlo, ma perché è Pirlo? Uh-huh. Perché è un grande della storia del calcio, è come se Ronaldo il fenomeno venisse ad allenare, cioè stiamo parlando di quelle robe lì, per cui è chiaro che sono quelle scorciatoie che in qualche modo ti derivano dalla tua carriera e dalla tua immagine. Roberto Mancini, che è un grandissimo allenatore, l'ha dimostrato nella sua carriera, sicuramente non ha fatto la gavetta che ha fatto Serse Cosmi, tanto per essere chiari, perché è Roberto Mancini, però sì. Poi è stato bravo, perché poi se non sei bravo le cose non funzionano, quindi tornando al discorso di partenza, io sono d'accordo con voi, io penso che in questo momento l'Inter abbia tanta pressione addosso, perché ha speso tanti soldi, perché Conte è un allenatore bravissimo, è un allenatore pagatissimo, i risultati della prima parte della stagione non sono straordinari Champions, e la pressione è ovvia, è la pressione che c'è alla Juve se non vince il derby col Torino, certo. Che pressione c'è? Abbiamo parlato anche ieri a proposito di comunicazione, pare che qualcosa non funzioni perfettamente all'interno nella comunicazione interna, in questo caso della Juventus con i giocatori, sono discorsi di questo tipo. Ieri è uscito un articolo, l'hai citato tu, ieri è uscito un articolo in cui si dice praticamente che la luna di miele di Pirlo è finita, uh-huh. E che c'ha, insomma, la squadra non sa più che fare. Sul Corriere della Sera è uscito. Ne abbiamo parlato quindi, ieri con l'autore, peraltro. C'è una cosa che ti do assolutamente ragione, ma c'è anche un altro elemento per quelli come Conte, cioè per chi gioca così tanto, Pirlo non lo fa per esempio, chi gioca così tanto sul profilo identitario, sul noi contro tutti, sulla teoria del capopopolo come guida attiva. In questo momento devo dire che gli stadi vuoti, quel genere di costruzione della leggenda del Fortino è molto più difficile. Ci sono dei momenti, ricordo benissimo, dell'Inter di Mourinho, ma anche di altre squadre con allenatori con quel carisma, che al 70esimo, con 3 cambi e la cacciara più terribile in campo, il pubblico fa la sua parte, diventa indimenticabile la rimonta e vive viva. Adesso quel lavoro è più difficile, non hai nessuno che ti compra la tua teoria a gratis sempre e la prende per buona, sei da solo, e questo devo dire che io lo considero come attenuante, cosa che invece Conte non ha mai detto, cioè lui non dice siamo privi del pubblico in quel senso. Per me, per uno come Conte, che ha tutte le caratteristiche che dice Pierre, cioè di essere bravissimo e pagatissimo, però anche il tema coreografico puro, il tema della scenografia in cui metti in scena la tua recita è importante, e l'Inter, come tutti gli altri, gioca un calcio che probabilmente sarebbe corroborato da un po' di rumore diverso. Questa è la mia impressione. Michele, io l'ho detto alla seconda giornata, e chiaramente qualcuno mi ha scritto che lo dicevo perché ero interista. In quel momento ero interista, sai che io ho una squadra che cambia ogni 15 minuti. Ma certo, è la verità, non vale solo per l'Inter. Però l'Inter, se guardiamo gli ultimi anni, ha dei numeri di riempimento dello stadio anche in anni in cui non ha vinto, che sono clamorosi. Io ho raccontato delle partite dell'Inter nelle quali veramente era un fattore aggiunto, così come il pubblico del Napoli in certe partite di Champions League è stato un valore aggiunto. Le grandi squadre questa cosa ce l'hanno, e forse non è un caso che dietro al sostanziale riequilibrio di tanti campionati, non solo in Italia ma anche all'estero, ci sia questo elemento qui. Perché un conto è andare a giocare in casa del Real Madrid, un conto è andare a giocare in casa del Levante, certo, e un conto è andare ad Anfield col pubblico e un conto è andarci senza. Atalanta ha fatto un'impresa meravigliosa la settimana fa, magari col pubblico era un po' più difficile, perché quegli stadi, grazie a Dio, ci siamo stati tutti e sappiamo che un po' pesano. L'Inter è assolutamente al centro di questo tipo di narrazione, quindi questo è vero. Detto questo, Conte è bravissimo, ma quest'anno ovviamente non può nascondersi, no, è poi la cosa più logica del mondo. Che poi vorrei che Michele Dalai rispondesse a questo messaggio che già anticipo, poi ci fermiamo un attimo, parliamo anche di altre cose, però c'è anche chi scrive: siete ridicoli, la stampa da anni gode ad attaccare l'Inter, ricordarsi anche quando vinceva tutti contro Mourinho e la squadra dominava, oggi con la Juve tutti appecorati. Non mi sento particolarmente appecorato, ma ci fermiamo un attimo. Più o meno le stesse cose le diceva Mourinho, e il condottiero, lo dice Conte, è quel gobbaccio magnifico, ma dai, forza. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Sì, ma anche questa storia del Real Madrid peggiore degli ultimi 20 anni, bisognerebbe piantarla questa leggenda metropolitana da Bar Sport. Perché nel Real Madrid che ha affrontato l'Inter, una parte dei giocatori di quel Real Madrid penso che potrebbero giocare titolari nell'Inter, e secondo me giocherebbero anche titolari nel Milan, attualmente primo in classifica. Stasera, complice il clima natalizio, per la prima volta in vita mia non auspico la sconfitta dell'Inter. Mi accontento del pareggio, mi accontento. Avete appena paragonato San José a Conte. Vado via. Ciao. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp vocali. San José. No, Conte a tutti, secondo me invece Conte ha tutte le caratteristiche per conquistare gli interisti. So che è un discorso in questo momento molto difficile. Sì, però da fare, c'è un dato oggettivo, cioè allora l'Inter contro grandi avversari in partite come quella dell'anno scorso col Barcellona, cui il Barcellona non ha nulla da perdere, questo è col Real, il Real è malmesso, dai ragazzi, non diciamoci sciocchezze, il Real è malmesso, guardate la classifica, guardate le altre partite che ha fatto, appunto. Contro grandi avversarie l'Inter stecca, non so per quale motivo o ragione, però nei grandi confronti diretti l'Inter fino adesso ha steccato solo numeri, non è stampa avversa, mi pare, Pierluigi. No, anzi, io sono curioso stasera, anche se parlo la partita dell'Atalanta, e sono curiosissimo ovviamente di vedere, e spero che l'Atalanta non si complichi la vita stasera, ma sono curioso anche di capire cosa farà l'Inter, perché comunque a Reggio Emilia abbiamo visto, al netto degli errori e delle ingenuità del Sassuolo che ci sono state, abbiamo visto un cambio di passo importante. Ripeto, cioè io penso questo, che è proprio perché stimo l'Inter, penso che abbia fatto un grande lavoro sulla rosa, penso che abbia tutto per poter, che non vuol dire che debba vincere, ma che debba lottare per lo scudetto mi sembra proprio pacifico. Che no? Alla fine del percorso perché ci debba essere lo scudetto, quest'anno insomma o lo vinci o hai fallito, diciamoci la verità. Stimo la società e stimo l'allenatore, e quindi se stimo la squadra, la società e l'allenatore, e poi i risultati sono quelli della Champions, perché in questo momento il campionato alla fine il bilancio è anche discreto, ma se il bilancio è quello della Champions è chiaro che c'è un cortocircuito. Michele, ma ripeto, è un segno di stima. No, ma cioè, certo, se certo. Se non fosse una notizia, l'Inter a 2 punti dopo 4 giornate vorrebbe dire che stiamo parlando di una squadra mediocre, per me non è una squadra mediocre, per me è una signora squadra. Qualcosa da aggiungere sul punto, Michele, poi ti devo far commentare un'altra cosa. Io sono interista, non ho l'equilibrio e l'equidistanza che riuscite ad avere voi quando parlate di calcio, quindi questo Pier lo sa meglio di chiunque altro. Allo stesso tempo tento di avere una forma di moderazione che mi fa insultare tantissimo dagli interisti, cioè è uno dei paradossi più belli del mondo, perché cercare di essere lucido da tifoso non può funzionare, una specie di animale mitologico. Mi sento di dire che a me Conte non piace, ma non piace per una serie di motivi che iniziano e finiscono, iniziano tanti anni fa e finiranno tra qualche anno, ma questo è un giudizio umano e non tecnico, cioè umano nel senso che non mi sta simpatico, ma giudizio tecnico è che è un ottimo allenatore. Non ha senso il paragone, non i paragoni con Mourinho, nessuno lo ha fatto, non l'abbiamo fatto poco fa. Qui il concetto è semplicemente uno: è un allenatore che ha in mano una squadra che può vincere. E mi preoccupa solo quando con in mano una squadra che può vincere, non solo quest'anno, ma anche l'anno scorso, nonostante sia stato incensato, le partite determinanti, le partite secche che andavano vinte, l'Inter raramente le ha vinte. Uh-huh. C'è qualcosa che non funziona, che probabilmente è quel piccolo dettaglio che trasforma le squadre forti in squadre vincenti, perché vince solo una e non tutte le altre. Quel dettaglio però manca, e allora se ogni volta che quel dettaglio manca Conte deve trovare dei nemici veri, immaginari, nascosti sotto il tappeto, nelle scatole, da interista questo è preoccupante, sì, questo è molto preoccupante. Lì la squadra è fortissima, era più forte del Real, lasciamo perdere l'esperienza europea dei giocatori, il Real che è arrivato a giocarsela era una squadra in difficoltà vera, l'Inter ha giocato una brutta partita, ogni tanto si può dire. La forza e la serenità dell'allenatore è quella dell'allenatore che va in conferenza stampa e dice: abbiamo giocato male, Rino Gattuso. Succede, si può fare. Poi detto questo, perché non diventi una questione personale, anche perché a Conte che gli frega di quel che penso io, mi limito a dire che è ancora lunga e che c'è tutto da giocare. E Agostino cosa allora dice? Da Como? Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, intanto complimenti. Grazie. Quando posso vi ascolto. Bravissimo. C'è anche il podcast, volendo. Siete abbastanza obiettivi quando parlate di Inter, devo riconoscerlo. Poi per noi interisti parlare male dopo Real Madrid Inter è facile, perché siamo noi i primi a vedere quello che è stato fatto, e anche parlare male in questo momento di Conte lo si può fare, certamente. Però secondo me è un po' una cosa atavica, cioè lo diceva anche Bergomi, che è tutt'altro uno che lui nelle sue telecronache massacra spesso volentieri l'Inter, per cui cioè è proprio il rapporto stampa Inter che è proprio di vecchia data, che c'è un occhio particolare. Ma non lo so, io faccio fatica a capirlo. Poi io con Pierluigi mi ha fatto mille volte questo ragionamento, a quelli che dicono in telecronaca massacri questo o quell'altro, il telecronista racconta. Io non mi sono mai accorto di che Beppe Bergomi non abbia simpatia per l'Inter mi sembra chiaramente è un professionista, non devo parlare io di lui, è un professionista e giudica quello che vede. Ritorno al punto di partenza, cioè dipende anche dal potenziale. Cioè, questa squadra ha potenziale, questo allenatore è un allenatore fantastico, non è stato preso per fare il compitino, per prendere il 6 in pagella, è stato preso per prendere 8 in pagella, perché è Antonio Conte e ha dimostrato in questi anni di essere un allenatore clamoroso. Uh-huh. E quindi poi quando i risultati non arrivano è ovvio che questa cosa venga sottolineata, anche perché 800 sono i milioni di le centinaia di migliaia di euro che piglio ogni mese, grosso modo, questo attenzione non è che deve diventare una colpa, è una sottolineatura del fatto che è un grande allenatore che ha quel valore di mercato, e allora è stato preso con quel valore di mercato perché è bravo. Se i risultati arrivano tra virgolette fa il suo, se i non arrivano allora il rumore dei nemici per forza di cose si sente un po' di più. Voglio far sentire una cosa a Michele Draghi, che io ho provato a spiegarlo ovviamente male, però lui ci riuscirà molto ma molto meglio di me. This is a jersey that the All Blacks have signed with the name Maradona on it. Avrete capito che cos'è, Michele, certamente, essendo anche uomo di profonda cultura rugbistica, io l'ho provato a spiegare male che cosa abbia voluto significare quel gesto degli All Blacks nella partita con l'Argentina. Beh, gesto di rottura storica, e per quanto la storia sia fatta di grandi scenari, di grandi eventi, questa è una piccola storia meravigliosa di sport, ma che lascia un grande segno. Il rugby è uno sport di squadra, e è banale dirlo, ci sono tanti sport di squadra, ma più di altri il rugby è uno sport di squadra perché gli individualismi sono quasi puniti anche fisicamente. Poi ci sono i campioni che rompono il gioco, John Alomu, Campese, quelli come loro, però tendenzialmente il rugby è uno sport in cui davvero 15 persone giocano insieme e si cancellano i protagonismi, tanto che sulle maglie dei giocatori da rugby in tutto il mondo non appare il nome, sulla schiena non c'è scritto un nome. La maglia degli All Blacks è una maglia ancora più particolare perché è proprio detto comune che sia una maglia che un giocatore prende in un posto, in uno spogliatoio, e la lascia meglio di come l'ha trovata, la deve onorare fino all'ultimo e la lascia meglio di come l'ha trovata, quindi non è mai sua. Ecco, gli All Blacks, in morte di Diego Armando Maradona, hanno deciso di fare una cosa rivoluzionaria per il loro sport e per la loro cultura, hanno messo un nome su una maglia degli All Blacks, cioè sulla maglia numero 10 hanno scritto Maradona e l'hanno deposta davanti ai giocatori dell'Argentina, prima di un'arca dedicata anche a Maradona, come a dire che solo uno tra tutti quelli che hanno giocato quell'altro sport, ma solo uno nella storia degli sport, loro hanno ritenuto degno di scrivere sulla loro maglia, ed è Diego Armando Maradona. Maglia data, lasciata ai giocatori argentini prima di batterli 38-0, quindi onorando ancora di più quella maglia dopo che avevano perso la partita prima. È una cosa bellissima, ha un valore non solo simbolico, soprattutto in questo momento, perché ti racconta che al di là di qualsiasi scemenza, sciocchezza, cattiveria, giudizio ex post si possa dare su una persona, l'atleta Diego Armando Maradona ha davvero cambiato il mondo, e lo sport più in antitesi in assoluto sotto tanti punti di vista decide di omaggiarlo in questo modo, che è stato davvero commovente. Ecco, allora esiste anche il podcast, come vi ho detto, ritagliate questo e ogni volta che viene qualche pensiero impuro riascoltatelo. Ciao Michele, grazie. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, saluto anche te Pier. Carlo, in 15 secondi. Vai. Volevo ricordare Arturo Diagonale che sì, bravo. Nella ultima parte della sua carriera da professionale si è occupato di sport, si è occupato di Lazio, si sono imbattuto varie volte. Era veramente una persona molto, molto dialogante quando c'era da fare un'ospitata, insomma, o da discutere una partecipazione al giocatore della Lazio. Quindi ho un ricordo di una persona molto, molto garbata e molto misurata, anche se non lo conoscevo benissimo. Credo che insomma, oggi benissimo. Tutti abbracciamo la famiglia. Grazie, Pier. Grazie, davvero. Allora, ciao. Dopo la borsa, torniamo. Michele Dalai, presidente, via i gobacci, via! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Allora, io è qualche giorno che mi mordo la lingua, anzi che mordo il telefono per la verità, in attesa del ricordo che non avrei mai voluto sentire, perché il Diaz è salito a cena con gli dèi. Ciao Marino Bartoletti. Buongiorno Carlo. È 4 giorni che prevale la malinconia, però, perché al di là di tutto quello che si è detto, si è scritto, si è pensato, si è straparlato, io resto dell'idea che per quanto mi riguarda ho perduto un amico. Ed è a quello che mi voglio attenere. Guarda, questa canzone è scelta correttamente dal direttore artistico, come sai fa parte della commedia musicale Vita, scritta da Andy Lloyd Webber, cioè quello di Sky Superstar, di Cats, di Fantasma dell'Opera, e uscì nel 1978. Ebbene, nel 1978 io ho conosciuto Diego Armando Maradona, perché ero al Mondiale d'Argentina, in realtà seguivo la nazionale italiana, però qualche volta mi venne consentito di andare nel ritiro dell'Argentina, che come sai sarebbe diventata campione del mondo, non soltanto perché aveva una squadra meravigliosa, ma perché il vento spirava potentemente a suo favore. E Diego, come forse qualcuno ricorderà, 17enne, era aggregato a quella nazionale, pur non essendo stato ufficialmente convocato, era il 23esimo, quindi io ebbi la gioia di vederlo in allenamento e ebbi assolutamente la sensazione che nel mondo del calcio fosse atterrato un marziano. Poi l'avrei rivisto di persona al Mondialetto dell'80, poi l'avrei ufficialmente incontrato nell'84 quando gli portai l'ormai celebre maglia del Napoli che acquistai da una bancarella di Little Italy. Lui era in ritiro con la nazionale a Brooklyn e io lì al sito della nazionale italiana. Il mandato era dargli la maglia del Napoli, così facciamo col Guerin Sportivo uno scoop straordinario. Ne venne uno scoop straordinario, ma ne nacque anche un'amicizia straordinaria che, per quanto mi riguarda, non è morta e non morirà mai. Ciao Leo Turini. Io cosa posso aggiungere dopo no, queste tu hai già scritto, l'ho citato l'altro giorno, una pagina meravigliosa sul tuo giornale. Beh, sei molto caro. Io guarda, penso davvero che con Diego è morto il Novecento, perché lui è stato la coda, la stella cometa del secolo breve. Non possiamo immaginare il secolo che abbiamo alle spalle senza ricordare le sue meravigliose prodezze, e insieme all'ammirazione sconfinata, infinita, per quello che è stato il calciatore, c'è anche, come dicevano i latini, la pietas per l'essere umano, che purtroppo non è stato capace di sottrarsi alla china dell'autodistruzione. Questo è un rimpianto che in me prevale, perché, come è scritto nella Bibbia, insomma, ogni vita perduta è un mondo che si perde, e a maggior ragione vale per uno come Maradona, insomma. Sì, tanto che in questi giorni Leo fa anche, cioè, io provo guarda ad evitarlo, se non fosse per ragioni professionali, la lettura delle cronache che arrivano dall'Argentina, ma anche dall'Italia, perché non si sentiva il bisogno delle frasi, ad esempio come quelle pronunciate da Ferlaino su Pessotto e prima ancora, sai, quando accadono eventi come questo, cioè l'addio sicuramente prematuro di un grande, voglio dire, un grande tra i grandi, perché Maradona è stato il calcio, l'abbiamo detto infinite volte, poi dopo è anche fatale che si scivoli o nell'iperbole o anche negli eccessi. È cattivo gusto. Ma sì, insomma, io lascerei stare, perché voglio dire, teniamoci il bello che è stato per chi c'era, ma anche per chi non c'era, e oggi grazie ai mezzi digitali può recuperare quelle immagini. Il bello è la fantasia, la poesia che Diego ha donato, l'emozione che ha portato giocando a pallone. Il resto io non condivido nemmeno, lo dico con molta franchezza, le celebrazioni su certe cose del personaggio, il paragone con Mohamed Ali è assurdo, voglio dire, Ali è andato in galera perché si batteva per i diritti dei neri, Diego purtroppo c'è finito per storie di droga che lui stesso ha ammesso, quindi insomma c'è una tendenza all'esagerazione. Io mi fermerei a quello che ha detto Marino all'inizio, che è stato bellissimo, e lasciami anche aggiungere che sono lieto di ritrovarlo, perché ci ha donato una settimana fa, e se io fossi al posto del direttore artistico, come ulteriore contributo musicale che vale anche per tutte le persone che si vogliono bene, che oggi sono separate causa virus eccetera, proporrei Ritornerai di Bruno Lauti, perché Marino è ritornato fra di noi. E però voglio dirvi anche una cosa, adesso la cerchiamo, no, ma però voglio dire un'altra cosa, perché sapete, oggi una notizia purtroppo non sorprendente, perché è capitato, sta capitando tantissimi, che anche Lewis Hamilton ha contratto il Covid, no? Sì. Allora qualcuno mi ha chiesto: ma siamo sicuri della salute di Vettel e Leclerc? La mia risposta è semplicissima: assolutamente sì, perché hanno sempre tenuto in pista il distanziamento, molto più del metro previsto, alcuni chilometri, quindi è un pericolo che non corrono, hai capito? Per la gara bis di domenica, di cui parleremo subito dopo il traffico. Mario Bartoletti è stato perdonato da Leo Turrini, ma già dalla settimana scorsa, a testimonianza del fatto che ti vuole un mondo di bene. Beh, di tutto questo parleremo dopo il traffico. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. ritornerai. Lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai. Ringraziamola Dall'Ara, che è un'eccellenza dell'Italia, ha fornito il telaio alla AS, la cellula di sicurezza, e poi fornisce anche tutti i telai alla Formula 3, all'Indy e altre competizioni. Grande Dall'Ara. La settimana scorsa il direttore artistico aveva proposto Michele Pecora questo pezzo di Bruno Lauzi dedicato alle Auturrine a Marino Bartoletti. Beh, documenta la distanza che c'è tra il sottoscritto e le Auturrine, abissale. Vabbè, ne prendo atto. Resta il fatto che dopo aver appurato Marino che non ci saranno problemi per i ferraristi, perché Hamilton questa stagione non hanno avuto contatti ravvicinati, l'hanno visto solo in TV, voglio sentire da te cosa hai provato nel vedere un miracolo in diretta televisiva domenica. Ho provato uno spavento che non dimenticavo, ho provato l'orrore che mi ha riportato a certe scene a cui ho assistito dal vivo, e sicuramente vi ha assistito anche Leo. Ho ripensato a Berger, a cui venne salvata la vita soltanto perché ebbe la buona idea di incendiarsi a Imola e non in un'altra pista, come accade al povero Williamson, o prima ancora al povero Bandini. Abbiamo visto morire nel rogo, perché difficilmente dal rogo ci si è salvati negli anni scorsi, delle persone che forse urlavano impotenti sotto quella macchina e che davanti alla codardia, alla incapacità degli uomini di poterli salvare, purtroppo non si sono salvati. E quando Lauda bruciò, lo salvarono i piloti, non certi commissari. In questo senso devo dire che l'automobilismo, nel quale se Dio vuole, grosso modo, non si muore più, se non in circostanze veramente imprevedibili, sono stati fatti passi da giganti per quanto riguarda l'incolumità, prevedendo forse addirittura anche quello che non si poteva prevedere, perché neanche Dio in terra, credo che a quello che stavamo vedendo in quel momento, senza salivazione, poteva pensare di poter fare qualcosa. Invece è uscito quest'ombra scura, un po' scottaticchia da quelle fiamme, e credo che il silenzio sia rimasto, perché qualcuno ha avuto il coraggio a forza di urlare, qualcun altro è rimasto ugualmente inebitito dalla paura e forse persino dal sollievo. Leo? Ma sai, quello che abbiamo visto domenica è stato, come ha detto giustamente proprio Hamilton in tempo reale, un monito. Vedi, noi siamo portati ormai a considerare la Formula 1 in particolare come una sorta di gioco virtuale, no? Una PlayStation. E non si muore più, e vediamo dei ragazzini giovanissimi, Verstappen addirittura debuttò nei Gran Premi che era ancora minorenne, perfettamente in grado di portare queste macchine a 300 all'ora e passa, che ben inteso è tutto vero, ma rimane anche vero che azzerare il pericolo e il rischio non è possibile, e quello di domenica è stato appunto un avvertimento. Poi ci sono state delle cose, come diceva Marino, assolute, anche come ha detto il nostro interlocutore, straordinarie, come ha retto la cellula di sopravvivenza del mio amico Dall'Ara, la tempestività che c'è stata nei soccorsi con gli estintori e così via. Ci sono però anche delle domande sulle quali adesso è molto opportuno, come è stato deciso, che la federazione indaghi, perché un guardrail non può stare in quel punto lì, un guardrail non si può bucare in quel modo come se fosse un formaggio groviera. Insomma, è stato detto in maniera banale ma autentica che si è trattato di un miracolo, perché al di là dei meriti che ha investito tanto sulla sicurezza in Formula 1, io non trovo un'altra parola, Leo. Io credo che da lassù Bianchi e Ayrton e altre Ratzenberger, vittime della velocità, ci abbiano guardato giù, perché rivedere poi Grosjean venire fuori dalla macchina praticamente illeso e già a sera in grado di postare sui social e così via, insomma, c'è stato secondo me anche un aiuto straordinario. Ecco, non bisogna mai dimenticare il fattore rischio e mai abbassare la guardia sul fronte della sicurezza. Detto questo, la vera domanda però che io vorrei porre a Marino e anche a te, no? Allora, in questo weekend si replica su una versione diversa del circuito del Bahrain, Hamilton non corre per via del Covid, no? riuscirà il maggiordomo finlandese Bottas a battere almeno il pilota di riserva della Mercedes? Prima domanda. Seconda domanda, essendo la Freccia Nera un missile, ma se poi quello che ci monta sopra, che non si sa se sarà Russell o se sarà Van Dorn, va a vincere la corsa o anche solo va sul podio, no? Che tipo di valutazione ne potremmo trarre? Io vorrei su questo che Marino sia tornato con noi sulle note di Bruno Lauti, dopo aver inflitto il dolore grandissimo una settimana fa, esprimesse la sua augusta opinione, della quale sono stato orfano appena pochi giorni or so. La mia augusta opinione si inchina alla tua, perché sei fin troppo generoso ad affidarti a me, sapendo perfettamente quello che succederà domenica nel deserto. Per me vince Verstappen, penso un po', e Bottas finirà ancora per l'ennesima occasione perduta, perché poi Bottas è anche la dimostrazione che puoi avere anche un razzo sotto al deretano. Ma se sei Hamilton vinci sempre, a volte anche con un po' di fortuna, ma certamente con un talento in mento. Se sei Bottas la cosa accade un po' più raramente, questo è abbastanza evidente. Io devo ringraziare pubblicamente Leo, perché si è fatto promotore della diffusione della Cena degli Dèi, il mio libro che uscirà dopo domani, forse anche per un minimo di gratitudine, perché io sto facendo il piazzista per il suo libro dedicato ai grandi, alla grande famiglia Panini, però devo dire che le cose stanno riuscendo bene. L'altro giorno, grazie a lui, un signore ha comprato 80 copie. È tutto vero, ma devo dire comunque che si tratta di un riconoscimento immeritato per la prosa di Marino. Quello che rimane però sospeso nell'aria è dove diavolo era Bartoletti 7 giorni fa. Ecco, io prima o poi, prima che si arrivi alla pausa natalizia, eccetera, vorrei che il bravo conduttore si facesse spiegare. Non me la sento. No, se vuoi glielo chiedi. Tra 7 giorni glielo chiedi tu direttamente. Io non me la sento, te lo dico subito. Grazie ragazzi, come sempre. Marino Bartoletti, Leo Turrini e Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy! Saluti!